faccio più a resistere. Per vincere bisogna insistere. Ottimista, meglio essere ottimista, e sei l'artista che crea la sua vita. Perché ottimista, meglio essere ottimista, torna la voglia di vivere i sogni con te. La fatica come il vento passa, se ne va, torna la voglia in me di resistere. Per vincere bisogna insistere. Ottimista, meglio essere ottimista, protagonista, guardare la luce che sei ottimista, puoi riguadagnare la speranza e poi sarà più bello, sai, vedere scomparire i guai. Io e te, l'amore insieme, nessuno spezza questo legame. La vita esiste per stare bene. Vieni anche tu.